ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. 18ª puntata. Il giorno seguente doveva essere l'ultimo della sua permanenza al Morgan. Ferranini se la vide arrivare in camera che ancora non erano le 8. Aveva con sé il solito mazzetto di garofani. «Sei matta alzarti a quest'ora, tu che devi restare in riposo?» «Perdonami, honey, non ho chiuso occhio. A questo modo tu non fai che peggiorare. Ah, io ti faccio del male restando qua». La convinse a tornarsene a letto. Le promise che sarebbe andato da lei più tardi. Newcomer lo trovò che preparava la valigia e gli sconsigliò di partire. Se era per il permesso di soggiorno, l'ospedale poteva ottenergli una proroga. E sua moglie? Passa l'Atlantico per venire a vederla e la lascia subito. Nancy, rispose Ferranini e si stupì della prontezza con cui la risposta gli era venuta alla bocca. Nancy è stata il pretesto di un'evasione. D'altronde poteva esserci del vero. Perché pentirsi di averlo detto? Newcomer era un uomo, uno che gli dava della simpatia, che lo aveva curato con intelligenza. «La mia idea, riprese quello, è che lei si dia tempo ancora una settimana e mi permetta di parlarle da amico. Qualche riguardo dovrebbe usarselo. Lei ha torto a non dare valore alla sua vita. Ho recuperato, mi sento normale». Adesso è proprio Nancy che è peggiorata e probabilmente per colpa mia. Me ne vado domattina senza dirle niente. Glielo spiegherà lei dopo. È un favore che da lei mi aspetto, Newcomer. Nel treno che lo riportava a New York, Ferranini si compiaceva che non ci fossero stati addii, di partire imprevisto come era giunto. Tutta quella parentesi, Philadelphia, il John Morgan, così strana, improbabile, non poteva avere una conclusione diversa. La certezza di non essere necessario a Nancy, di essere un'intrusione negativa nella sua vita, tornava a inviluppare quella parte dei suoi pensieri, rassicurante e ben adattata come un vestito comodo. Il dato era questo, che per Nancy restringersi ai suoi interessi privati o intimi aveva sempre qualche cosa di patologico, di precario. Il suo stato normale lo trovava fuori di là, in ciò che le stabilisse un rapporto impersonale con la gente, con una collettività su cui agire, imporre un programma, una chiamata missionaria, adempiuta con fedeltà, da essere davvero di esempio a molti, anche uomini. C'era generosità nel donchisciottismo di quella donna, così poco fatta per l'amore. E in fondo, giudicava Ferranini senza amarezza, così poco donna. Insomma, si diceva Ferranini, un essere più scompagnato da me non lo potevo incontrare 15 anni fa. E allora perché? Prima di andarsene dal Morgan, era tornato indietro, a lanciare uno sguardo alla loggia a vetri dove lei lo avrebbe aspettato. La voce di Nancy, che lo chiamava Walter, addolcendo il suo nome, l'aveva ancora nell'orecchio. Attraverso la campagna piovosa, rasente la costa dove il mare alto e verde si abbatteva senza suono. Il viaggio era lungo. Ferranini aveva bisogno di riempire il suo vuoto. Pensava volentieri la donna che non avrebbe riveduto mai più. Aveva bisogno, soprattutto, di non pensare a se stesso. Quando l'abitudine gli faceva del treno, da tanti anni, una rara occasione a riepilogarsi, a misurarsi, a decidere. Che è la condizione e la sostanza del vivere. Adesso se ne rendeva conto, con tristezza e dispetto. Ciò che invece lui cercava era il rinvio, o piuttosto la sospensione, trovare un altro intervallo come quello dell'ospedale e che durasse, non essere né di qua né di là, un assurdo che rispondeva al bisogno della sua stanchezza, l'equilibrio cui tendeva senza saperlo già partendo da Roma e credeva di evadere, non dovere mettere piede a terra. Uno stupido pensiero gli veniva insistente. Hanno inventato tante inutili libertà, i borghesi, e questa no. Già, pensò, perché questa non era una libertà formale. Si mosse, andò a girare il treno per procurarsi i giornali. Erano quasi 2 settimane che non ne leggeva. Tornò con i giornali, macchinalmente aperse la valigia, ce li ficcò, li nascose. Bisognava che quel viaggio non finisse più. L'aereo si sarebbe dovuto fermare in mezzo all'Atlantico, sprofondare dentro l'Atlantico, lasciare lui immobile, equidistante, la terza posizione geografica, visto e riconosciuto che quella vera non esiste. Newcomer. Aveva detto: le alte quote non sono l'ideale per lei, se ne vada per mare, è riposante. E lui però il ritorno sull'aereo lo aveva in tasca, buttarlo via gli dispiaceva. Così è, si levano sulla sofferenza reazioni che abbattono ogni cosa e non resistono esse a un calcolo spicciolo e magari meschino. Ma l'economia psichica, è il caso di dirlo, ha delle risorse curiose, seppure non conviene rifarsi a Marx anche qui, al mistero del feticcio moneta. Ferranini prese fuori il portafoglio. Voleva vedere i quattrini che gli restavano. Gliene restavano. Al Morgan erano stati stranamente discreti. Altre spese non aveva avuto occasione di farne, sicché la sua busta era quasi intatta dalla partenza da Roma. Si allungò nella poltrona più tranquillo. Nella busta c'era anche un foglietto contabile avuto dagli uffici amministrativi della Camera e quello gli richiamava le 8 diottrie e l'austerità del presidente. La sua raccomandazione di avvertire il gruppo prima di mettersi in viaggio. Non aveva avvertito nessuno. Dalla prossima fermata o all'arrivo a New York faceva in tempo a mandare un telegramma, se ne aveva voglia, perché oramai poteva anche telegrafare 2 parole a Nuccia. È vero, Nuccia. Verso di lei aveva più debiti che verso il gruppo. Era la prima volta che le dedicava un pensiero. Ma arrivato alle 3 a New York, si dimenticò di telegrafare. Uscendo dalla stazione, piano piano prese a risalire una grande strada. Subito stanco, ma contento di stancarsi di più. Era l'ottava. Non si fermò che al parco, forse mezz'ora di cammino. Si sedette, e pioveva, su una panchina alle spalle dell'hotel Mayflower, un punto dove doveva essere già stato, gli parve di riconoscerlo. Aveva riconosciuto all'ingresso del parco la piazza con la statua di Colombo. Intorno al monumento c'erano intruppate 1 centinaio di persone. Ascoltavano parlare un tale montato sul piedistallo. Donne, ragazze che issavano cartelli anticomunisti, antisovietici. Siamo contenti dell'americana maniera di vivere. Attenzione, commies, la guerra può diventare calda. Un ambulante gli offerse delle cartoline. Ne scelse una con la skyline notturna di Manhattan per un saluto a Fubini. Ma a Reggio no, in Federazione no. Gliela spedisco a Vimondino, ci va tutte le settimane. Ridiscese verso la stazione a riprendere la valigia per l'ottava nera e gremita, la rush hour, il crepuscolo affannato, la corsa ai treni, e intanto pensava a Vimondino. Andarsene al suo paese. Poteva chiedere il dirottamento da Roma su Milano. Milano, Mantova, Guastalla, tornare a Vimondino da Guastalla con la sua ferrovia e evitare Reggio. andare dai Fubini. La mamma di Fubini è sempre stata gentile, mi prende volentieri. Aspettare che Fubini venga a casa e parlargli, spiegargli. Oscar è un bravo ragazzo, dopo tutto. È affezionato. Appena lì, mettersi a letto. Ah, questo di certo. Faccio chiamare il dottore. Morganti, se c'è ancora. All'occorrenza Morganti mi fa un certificato per la camera. Chissà che Fubini non abbia voglia di fare una corsa a Roma a sentire, a informarsi. Sicché di lì a 20 ore c'era modo dall'ottava Avenue di vedersi per le strade di Vimondino, 1700 abitanti. Un bel salto. Sì, Fubini, meglio lui di Nuccia. Nuccia avrebbe 100.000 domande, 100.000 storie, meglio anche per lei. A lei si scrive in seguito o si telefona. Volendo potrà venire, stare una mezza giornata, dopo, più là. Passare il suo Po, familiare e selvatico, nascosto dai pioppi. Il suo Po malinconico. C'era il comitato interprovinciale da riunire. Il Po, gente mia, non ha ponti. Il nostro fiume serve solo per le inondazioni. Noi che siamo padani, non emiliani o lombardi e nemmeno italiani. Si ascoltava ragionare, incredulo. Lo spazio di un isolato. Da un incrocio all'altro, un paio di minuti e poi di nuovo da dentro il no. Mandare Oscar a Roma. Per sapere che cosa? Per ottenere che cosa? Tanto Ferranini non diventa più quello di prima. Disposto a rientrare per disciplina, per abnegazione o perché si rassegna, perché non trova di meglio. Il medico condotto Morganti certifica che Ferranini è rassegnato. Il rifiuto, l'indifferenza di fondo, lui che era l'uomo delle adesioni pronte, incondizionate. La folla lo accompagnava, diretta ai treni, e nelle soste ai semafori quelli di testa erano un fronte compatto. Gente al suo fianco, gente dietro di lui, che riprendevano a marciare, donne, uomini, con l'andatura tipica, rapida, ordinata, di Midtown, alle 5 pomeridiane. In quel rifluire, la sua inerzia sentiva un pretesto, un appoggio. Tuttavia, aveva fretta. E l'ottava è interminabile, da Columbus Circle giù sino a Pennsylvania Station. Si era accorto di non avere ancora fissato il posto per la sera. Il posto fu trovato e nel volo per Milano gli diedero il cambio di destinazione senza difficoltà. La donna allo sportello, che telefonò e brigò con molta cortesia per lui, parlandogli italiano, teneva vicino a sé la sua piccola trousse e su quella la matita delle labbra, un cilindretto dorato dall'estremità a ogiva. Lui si tastò, riconobbe al tasto la matita di Nuccia, che aveva preso a Roma, lasciando la libreria. Pensò vagamente, a Nuccia potrò dire che viaggiavo con il suo ricordo in tasca. Nuccia sarebbe venuta, poteva contarci. Non le aveva mica fatto nessun torto. Sull'East River, a mezzo fra le due sponde, ci fu un ingorgo. Rimasero bloccati a lungo sul ponte, nella notte contrastata da milioni di luci. Ferranini già si diceva che non poteva contarci. C'era il marito, c'era Lonati. Bisognava vedere che cosa aveva combinato quell'Onati. Ferranini oggi era un rivale che si faceva presto a colpire. Un uomo in liquidazione, praticamente fuori. E chi gli voleva del male aveva da fregarsi le mani. Lonati era capace di riprendersela e Nuccia poteva aver detto... Walter con sua moglie, io con mio marito, contenti in quattro. Nancy oggi era meno lontana, meno incerta di Nuccia. Tutto si era capovolto e la cosa gli pareva strana, incredibile. Nuccia diventava un ricordo. Nuccia e il resto. Il resto. Qualche cosa di ben più importante che non fosse la sua amica o Roma o Oscar Fubini si stava distaccando da lui. Bisognava rinunciarci finalmente o attaccarcisi. Il nodo della sua vita era quello. E proprio qui la coscienza gli slittava. Non faceva presa, intravedeva l'urgenza di risolvere e si negava a risolvere. Pensieri attinenti e elusivi gli si aggrumavano, inconcludenti, irosi. La sua posizione, liquidata. Ma da chi? Come? Il presidente Leone dice il mandato esprime il corpo elettorale. Lui aveva di meglio liquidare Ferranini. Andassero a Reggio a chiedere che uomo era Ferranini. E se non è vero che a Vimondino c'era un'amministrazione progressiva dopo 30 anni che comandavano i bianchi. E di Vimondino se ne contavano parecchi e svariati in provincia. E di lavoro e di cose ne aveva fatto. Per Dio se ne aveva fatto. Al partito una qualche decina di belle cooperative gliele aveva portate e un qualche migliaio di tessere e simpatizzanti e fiancheggiatori e voti. Teneva sulle ginocchia la sua vecchia valigia, ci picchiava su con le due mani. Quando ci credeva, lui era uno che la sua fede l'aveva saputa moltiplicare. Era un propulsore lui. Ma sì, aveva lasciato Roma senza avvertire, per 8 giorni. Una chiamata improvvisa, necessità di famiglia. 8 giorni non era un delitto. D'altronde gli uffici alla Camera li aveva avvertiti. Il presidente Leone lo sapeva, gli uffici potevano aver informato il suo gruppo. Quando ci credeva, aveva detto giusto. E adesso? Si erano rimessi lentamente in moto e Lestruev si perse dietro di loro. Gli 8 giorni erano passati, lui stava per tornare, puntuale, in regola con le autorità americane e d'accordo con quanto si era ripromesso. Nessuno aveva da dirgli niente. Tornare. Avanzavano al passo. C'erano partenti inquieti nella penombra dell'autobus. Si profilava il pericolo di fare tardi all'aeroporto. Tornare. Un italiano accanto a lui protestava. Dopo aver reclamato con il personale dell'autobus se la prendeva con Ferranini che non lo aveva appoggiato. Ma a lei partire le preme o no? Sì, partire gli premeva. Gli interessava di andare. Andare e basta. Gente che lo aspettasse non ne aveva. Scopi non ne aveva. C'era la sua valigia, lì con lui. Tutto quello che era suo, tutto quello che gli occorreva. Lui era libero e indipendente. La cosa che lo disturbava in quel momento, lì dentro, era l'afa delle sigarette, l'odore delle Chesterfield, delle Lakis, tabacco Virginia. E una volta gli era piaciuto tanto. Scendendo dall'autobus e dopo, in attesa di raggiungere la pista, rabbrividiva dal freddo. Il vento buttava in faccia la pioggia gelida. Pioveva sul suo impermeabile, già fradicio, sulla gabardina con il bavero di velluto sporco di polvere e di forfora. Se n'era accorta la mattina al Morgan Miss Joy, l'infermiera, e senza una parola gli aveva porto la spazzola. Lui gliel'aveva buttata di mala grazia sul letto. La pioggia rimbalzava sul cemento, mentre si pigiavano affiancati ai piedi della scaletta dell'aereo. L'altra volta, 14 anni prima, era ripartito con gli stessi brividi, con lo stesso schifoso tempo, e allora volare era meno sicuro. Il suo era stato un vecchio apparecchio di una linea irlandese con l'immagine di St. Patrick incollata sulla porta della cabina dei piloti. Stavolta la faccenda si presentava diversa. Prima che annunciassero la partenza, trovò modo di perlustrare tutti i posti da un'estremità all'altra. Gli avrebbe fatto piacere ritrovare il negro Lamoureux. Il ricordo del viaggio di andata gli sorrideva, ci pensava con nostalgia. Per un momento gli era parso che Lamoureux ci fosse, un giovane viaggiatore alto, abbronzato dal sole, che si era tolto la giacca per infilarsi una giacca di pigiama che gli veniva stretta sulle spalle poderose. Riguadagnò il suo posto, prese fuori i giornali. Finalmente si sentiva voglia di leggere e si accorse che era venerdì dalla data. Pensò: domani sera Fubini sarà a casa, il sabato sera ritorna a casa. Aveva con sé il New York Times e il Philadelphia Inquirer. Vide che c'era un editoriale sull'Algeria, note e servizi dall'Argentina, dall'Arabia Saudita, da 20 altri paesi, non il più modesto notiziario dall'Italia. Al solito. Respinse i giornali, si affibbiò la cintura, pensò: mangio e poi mi addormento. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.